noi abbiamo parlato, io ho parlato per la verità, e non so perché uso il plurale maiestatico, e della dinamica finanziaria come fosse una dinamica semiotica. Cioè ho cercato in molte maniere di descrivere il processo finanziario come un atto di linguaggio, partendo dalla idea che il denaro è un medium, è uno strumento di scambio assimilabile in qualche modo ai segni linguistici. C'è un altro aspetto importante nella trasformazione finanziaria, nella trasformazione dell'economia in economia finanziaria, che è legato alle tecnologie di comunicazione. Cioè tutto l'edificio della economia finanziaria, che è un edificio fondato su grandi istituti come la borsa, la banca, l'indebitamento e così via, e la partecipazione agli scambi finanziari, l'acquisto di azioni, eccetera, eccetera, tutto questo complesso edificio si fonda naturalmente su delle modalità, delle tecniche di comunicazione che si evolvono nel corso del tempo e a un certo punto si evolvono in maniera rapidissima, radicale, nel senso che la finanza, che è sempre esistita, cos'è la finanza? L'ho già detto varie volte, ma cerco di ripeterlo in modo molto semplice. La finanza è quella dimensione dell'economia in cui il denaro diventa uno strumento per la produzione. Cioè la sfera finanziaria è quella sfera in cui chi vuole intraprendere deve andare per trovare i mezzi monetari con i quali avviare una impresa, ad esempio, o con i quali comprarsi il frigorifero, l'automobile. Comunque è un supporto monetario alla economia cosiddetta reale. Questa sfera è sempre esistita nell'epoca moderna. Le banche sono uno degli istituti, dei primi istituti della storia della modernità capitalistica. Il Monte dei Paschi di Siena nasce nel 1384, se ricordo bene, quindi non è nuova la finanza, non è un fenomeno recente. Però nuovo è il fatto che da un certo momento in poi la finanza compie un salto nello spazio dell'economia globale, complessivamente intesa, mentre nel passato la finanza era un passaggio dell'accumulazione capitalistica, da un certo momento in poi la finanza diventa una sfera a sé. Cosa vuole dire? Che nel passato io ho ho un'idea, poniamo, ho un progetto, una capacità, una competenza, mi occorrono dei soldi per poter mettere a frutto questa idea, vado in banca, prendo un capitale, lo investo per pagare delle macchine, per pagare il lavoro di qualcun altro, e in questo modo produco delle borse, che è la mia idea, produrre delle borse. E vendo le borse, ne ricavo un capitale maggiore, pago il debito che ho in banca e ho anche un mio arricchimento. Ma allora, cosa accadeva in questo modello dell'economia? Che il denaro diventa prodotti concreti, diciamo così, scambiabili, vendibili, utili, e questi prodotti utili venduti, scambiati con denaro, producono un aumento del capitale iniziale. Gli economisti usano la formula M, che vuole dire, D, che vuole dire denaro, si scambia con M, che vuole dire merce, e la merce si scambia a sua volta con più denaro. Allora, c'è un processo di accumulazione, valorizzazione, di aumento del capitale monetario, ma questo passa attraverso un atto di produzione utile in qualche modo. Da un certo momento in poi la finanza acquista invece una dinamica particolare, per cui il denaro valorizza se stesso senza passare più attraverso la produzione di beni utili. Cioè i cosiddetti prodotti finanziari sono concepiti in maniera tale da rendere possibile un aumento del capitale finanziario senza il passaggio della produzione materiale, della produzione utile. Questa è la finanziarizzazione che in cui noi abbiamo assistito negli ultimi 20 o 30 anni. Ma questo passaggio non sarebbe stato possibile senza una rivoluzione tecnica e comunicativa, che è quella della formazione della rete globale, della rete telematica, di internet, diciamo. Perché? Ecco, prima di tutto perché internet estende enormemente il mercato finanziario medesimo, cioè moltissima gente che prima non aveva mai pensato di poter investire i suoi soldi nella borsa, nelle azioni, ecco, nel mercato finanziario, grazie a internet può farlo. Nasce quel fenomeno che si chiama net trading, scambio attraverso la rete, che porta un enorme numero di persone che dispongono di un capitale magari piccolissimo a investirlo nel mercato finanziario. Questo ingigantisce il mercato finanziario medesimo, ma soprattutto permette la formazione di grandi agenzie che hanno il loro lavoro, il loro tornaconto nello scambio puro e semplice, nella manipolazione di questo scambio. In secondo luogo, internet, diciamo la rivoluzione digitale, rende possibile un fenomeno di globalizzazione del mercato in generale e del mercato finanziario in modo particolare, nel senso che, come sappiamo bene, non c'è più una necessaria territorialità degli investimenti. Cioè, se io voglio investire il mio denaro in una impresa, non necessariamente devo farlo, come nel passato, sul mio territorio. Posso investire dovunque nel mondo grazie al carattere globale della rete. Ecco, negli anni 90 cresce, e questo è l'argomento del quale soprattutto voglio parlare, vorrei approfondire, negli anni 90 cresce insieme con il fenomeno tecnico di internet, cresce una economia che è collegata con internet, che prende il nome di net economy, e cresce anche tutta una ideologia, tutto un sistema mentale, concettuale, politico, pubblicitario, che accompagna la formazione della rete e che accompagna l'ingigantimento del capitale finanziario. Questa ideologia, in un certo qual modo, sostiene, incrementa la partecipazione al mercato finanziario e incrementa anche una domanda che prima di tutto è la domanda dei beni tecnologici, di beni ad alta tecnologia, e poi anche una domanda di merci virtuali, di merci che non sono soltanto fisiche, ma che sono anche dai servizi online, ai giochi online, all'intero mondo delle merci ad alta tecnologia, delle merci virtuali, delle merci cosiddette immateriali, che non sono fisiche, ma sono per l'appunto puramente virtuali. Ecco, negli anni 90 cresce dunque una ideologia ed una economia virtuale che è lo spazio all'interno del quale viene poi a rendersi possibile, viene poi a crearsi la finanziarizzazione, che raggiunge la sua pienezza nel corso dell'ultimo decennio. Ecco, io vorrei dunque nelle prossime due lezioni raccontare, uno, la formazione di internet dal punto di vista non solo tecnologico, non tanto tecnologico, ma soprattutto dal punto di vista economico. Due, la formazione della ideologia, della cultura, anche della mitologia, se vogliamo, che accompagna per l'appunto la formazione di internet. Ci rivediamo domani e poi ci rivediamo lunedì prossimo. E lunedì prossimo mi piacerebbe riuscire a sviluppare un poco questo ultimo punto.